Da molti moltissimi anni, almeno svariati milioni, l'alcol si forma in natura per via della fermentazione. Non si può dire con esattezza da quando l'uomo si è dato all'ebbrezza, antropologi affermano concordi che c'hanno nelle grotte la notte facesse dei grandi bagagli. Radio Plaza, Radio Plaza di nuovo online su collettivotopia.blogs.org e dal vero, dal vivo qui in Piazza Municipio a Marigliano per completare, continuare la raccolta fondi per l'organizzazione autonoma, autogestita e indipendente del 1° maggio 2024. Occhio all'ingranaggio, quinta edizione qui a Marigliano. Sì, ed oggi presentiamo anche il programma di questa iniziativa indipendente, che è sempre particolare, questa cosa che diciamo, è inusuale, no? Inusuale. L'autogestione qui non è programmata nella vita delle persone, e quindi andiamo a snocciolare, diciamo, i vari ospiti che ci saranno. Sei pronta? Sono pronta. Oh yeah. Comincio a raccontarvi che ci sarà per tutta la giornata, ci saranno stand espositivi di preparazione, autoproduzioni, e quindi partiamo così nel raccontarvi chi sarà presente per tutta la giornata a Piazza Roma. Io la ricordo come dietro lo chalet, dietro lo chalet, che è un ex chalet, quindi è tutto in divenire, è tutto inutile a Marigliano. Sì. Allora saranno con noi presenti per tutta la giornata Officine Gramigna. Gramigna è un'erba infestante ottima per birrificare, pianificare dal largo impiego alimentare e medicale. Tutto in rima questa presentazione. La gramigna diventa simbolo di resistenza ai grandi sistemi di produzione, ai loro diserbanti, alle loro spirali di erosione. Le Officine Gramigna, le officine sono luoghi di confronto, sperimentazione ed elaborazioni, di messa in opera e di creazione. Spazi laboratoriali di autoproduzione di principi e pratiche di vita materiale e immateriale, di liberazione del lavoro vivo. Sicuramente già fatto dopo essersi preso una bella sfruzza. Allegro che ha brillo, al vincio ubriaco bradicio, se riesce creato modello, anche lui non è un lucido, ma fatto sta che abbiamo fatto guai. Questa sbaglia è collettiva, questo in governo finirà mai, questa fronte era cattiva. E dislocati tra diverse case e terre, scrivono da Gramigna, proviamo a costruire una forma di vita semplice, comunitaria e contadina, una comunità contadina diffusa, orti collettivi, cooperazione e condivisione, con l'obiettivo di un'alleanza tra chi produce cibo e chi lo consuma. Perché secondo te? Perché il benessere della comunità non prescinde mai dall'importanza che essa dona alla festa. Li conoscete, guardateli un minuto, li riconoscerete dal tipo di saluto. Lo si esegue a braccio teso, mano aperta e dita dritte, stando a quello che si è appreso dalle regole prescritte. È un saluto singolare fatto con la mano destra, come in scuola elementare si usa far con la maestra, per avere il suo permesso d'assentarsi e andare al cesso. Ora li riconoscete senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista fa questo saluto qui. Se non li conoscete è norma elementare guardare la maniera con cui sanno marciare. Le ginocchia non piegate vanno al passo tutti quanti, chi sta dietro dà pedate nel sedere a chi sta avanti, chi le piglia senza darle è chi marcia in prima fila, chi le dà senza pigliarle siano in 10 o in 10.000 è chi un po' meno batteo. E poi ancora per ma sempre tu la inizi giornata. No, posso iniziare una volta io? Ma dipende da chi prende l'iniziativa, scusa. Radio Plaza in piazza oggi a Marigliano, oggi è 28 aprile, mancano tre giorni al 1° maggio. E chi c'è allora per tutta la giornata al 1° maggio? Allora abbiamo presentato Officine Gramigna e andiamo avanti con un altro ospite che è Caos. Scrive Caos nei suoi, diciamo, punti di contatto con il mondo, che siamo a confronto di esperienze alchemico clandestine di soppressione creativa, una produzione di birra in quantità limitatissima con metodo manuale, acqua di fonte e un'attenta scelta di materie prime locali, biologiche e da autoproduzioni clandestine. Ma questo è del Settecento. La mente dei fascisti sembran tori, ma son buoi. La distribuzione, ancora più settecentesca, è rivolta ai soggetti dell'economia solidale e non commerciale, agli spazi sociali autogestiti, ai gruppi di acquisto solidale, alle singole persone, con lo scopo di attivare relazioni dirette e continuative di mutuo aiuto, anche attraverso forme di scambio differenti come la coproduzione e il baratto. Wow, bellissimo. Quindi facciamo movimento, ma del cazzo come le masturbazioni fatte a tecnica manuale con la destra. Eh sì, tipo una birra in cambio di una carezza. Conoscete adesso che sapete chi li acquista, solamente chi è fascista sa far bene da lacche. Se non li conoscete, guardate il capobanda, è un boia, un assassino, colui che li comanda. Sull'orbace sei indossato la camicia e la cravatta, perché resti mascherato tutto il sangue che lo imbratta. Ha comprato un tricolore ogni volta. Stiamo lo spandiera. Stiamo presentando il programma della quinta edizione di Occhio al 1 maggio, Occhio all'ingranaggio 2024, e per tutta la giornata saranno nuovamente con noi presenti, noi li adoriamo, sono Genuino Clandestino Campania. Oh, molto bello. Siamo nella descrizione di Genuino Clandestino si legge: siamo contadine, consumatori, critici, attivisti, politici che condividono l'idea di partire da un cibo sano ed accessibile a tutti quanti per instaurare relazioni sociali e circuiti economici alternativi a quelli dominanti. Una volta andavan solo con due bombe in bocca un fiore, mentre adesso col tritolo fan la fiamma tricolore. Genuino Clandestino è un movimento intergalattico con una identità volutamente indefinita. Al suo interno convivono singoli e comunità in costruzione, è aperto a tutto quanto, diffida di gerarchie e portavoce e non richiede nessun permesso di soggiorno o diritto di cittadinanza. È fiero di essere clandestino e porterà avanti le sue lotte, la sua esistenza con o senza il consenso della legge. Con gli amici che han laggiù. Riconosca nei principi di questo manifesto potrà divulgare e usare lo stesso manifesto, quello che troverete anche online di Genuino Clandestino nazionale, ma presente a Marigliano sarà il gruppo di Genuino Clandestino Campania, per rivendicare le proprie azioni. Genuino Clandestino è un movimento antirazzista, antifascista e antisessista. Che è uguale. Resta scura più forte una luce, dentro quella mi sento un fuoco che non può sfugare. Mi scrivo sull'ora, accavare su una crosta, tremura e appena mi addormo. Ma come cammino chiamo piano, chi per mano non sa l'occhio fa paura e guarda, chi non dà una vizia mora sana. Radio Plaza. Esattamente, si sente di nuovo solo a sinistra, o mi sbaglio? Si sente solo a sinistra, Radio Plaza. Si sente bene, Radio andiamo Plaza avanti. Si sente. La senti? È Radio Plaza. Sì, andiamo avanti con la presentazione del programma del 1 maggio, Occhio all'ingranaggio, che quest'anno verrà svolto a Piazza Roma, che vuol dire dietro la villa di Marigliano, nell'area antistante allo chalet, completamente abbandonato dall'ASL, dalla politica marigianese e dai cittadini, occupato solo per defecare. E che cosa succede a Marigliano il 1 maggio 2024? Chi ci sarà oltre a tutti quelli che abbiamo già presentato? Ci sarà il Giardino del Sole. Wow. Leggiamo un po' dalla loro bio che cosa ci dicono. Leggi tu. Alle pendici del Partenio viviamo in un'antica dimora del 1800. Loro, insomma, vivono, Una dimora ristrutturata e riconvertita alla vita rurale e sociale. Il giardino, bellissimo, noi l'abbiamo visto, andatelo a vedere. Storicamente era un frutteto ed oggi sta tornando ai vecchi splendori ed accoglie un agrumeto, un nuovo frutteto, l'orto familiare, l'orto officinale, seguendo principi di agricoltura naturale ispirati alla permacultura. La statuzia diventa una bassa, resta oscura che è meglio la luce. Stanno rindando un tremme chi stocchia. All'interno di questa antica dimora del 1800 c'è una cantina che accoglie uno spazio di esposizione e degustazione dei prodotti. Prodotti lavorati anche nell'antica cucina che è il laboratorio di trasformazione agroalimentare. E poi ci sono degli appartamenti dedicati all'accoglienza di viaggiatori, woofer e gruppi altri. Radio Plaza. Adesso, in questo momento, alle 11.29, piazza Municipio a Marigliano. Ci sono 40 gradi. È bellissimo. Guarda il mare com'è calmo. Le barche, i bambini che giocano sulla spiaggia. Lo vedo e sopra di me, il mare sopra di me. Noi qui a presentare il programma quasi definitivo, quasi perché non si può mai sapere, del 1° maggio 2024, Occhio all'Ingranaggio, quinta edizione. Chi altro ci sarà al 1° maggio, Occhio all'Ingranaggio, quinta edizione 2024, dietro allo chalet di Marigliano? Ci sarà anche Wojtek, è una libreria. Si raccontano così: attraverso i libri e dai libri ho appreso che i cieli non sono affatto umani e che un uomo che sa pensare, anche lui, non è umano. Wojtek è una libreria stata fondata nel 2018 da Valeria Romano e Ciro Marino a Pomigliano d'Arco, in piazza Giovanni Leoni, anche qui un'ex piazza Primavera. È povero anche il cavallo. Sì, beh, sì, beh, è l'imperatore che gli ha portato via. La libreria ospita e promuove gruppi di lettura, corsi di scrittura e inoltre estemporanei ma costanti incontri, dialoghi, a volte monologhi e anche scontri. Ho visto un vescovo. Ho visto un vescovo. Ave, sì, anche lui piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano. La mano di chi? La mano del sacrestano. Povero vescovo. E povero anche il sacrista. Sì, beh, sì, beh, è il cardinale che gli ha portato via un'abbazia. Oh, per Cristo! 32 che lui cena. Povero vescovo. E povero anche il sacrista. Sì, beh, sì, beh, ho visto un ricco. Ce l'hai, scusa? Ho visto un ricco. Un show. Sì, ave, sì, beh, sì, beh. Il tapino lacrimava su un calice di vino ed ogni goccia andava diretta al vino, sì che tutto l'annacquava. Povero tapino. E povero anche il vino. Sì, beh, ave, sì, beh. Radio che? Radio Plaza. Ah, sempre quella, è sempre Radio Plaza. Sarà una risata che che vi seppellirà, salverà noi e seppellirà loro, sì. Andiamo avanti. Diceva il maestro, andiamo avanti, stiamo raccontando chi sarà presente per tutta la giornata sotto gli stand per il 1° maggio 2024, Occhio all'Ingranaggio, quinta edizione a Marigliano, dietro l'ex chalet. Siamo in diretta su Collettivo Utopia.noblog.org. Questa è Radio Plaza, una radio estemporanea. Libera. Radio Libera che presenta la quinta edizione di Primo Maggio. Occhio all'ingranaggio. E chi presentiamo? 24, Libera. Organizzato dal collettivo Utopia in maniera autonoma, autogestita, indipendente. Libera. Libera e libera. Andiamo su Libera. Libera è libera delle marmellaterie vesuviane. Allora sì, io ricevo. È pubblico così. Noi riceviamo e pubblichiamo. Loro ricevono e se le rubano. Mi chiamo Libera Feola, vivo a Somma Vesuviana, codice fiscale. No, quello no. Numero di telefono 347 888. Noi scherziamo perché le vogliamo bene. Sì, è nostra amica, sì. Sono una contadina, cuoca trasformatrice. Da più generazioni la mia famiglia si occupa di agricoltura, sia da parte materna che paterna. Questo presupposto mi ha dato le basi per poter portare avanti un'idea di coltivazione diversa, che nonostante il duro lavoro sia rispettosa del territorio e dell'uomo. Vivo nell'area del Parco Nazionale del Vesuvio, dove ci sono anche donne, animali, piante, e coltivo diverse cultivar. Vabbè, di albicocche vesuviane, prugne, cachi, noci, pomodorino del Piennolo. Inoltre mi occupo di trasformazioni di marmellate, confetture, dolci e di cucina tipica locale, come quella delle nostre nonne. Vabbè, libera dice che non riesco a descrivere appieno la bellezza e la gioia che trasmette un lavoro come il mio, duro, faticoso ma molto gratificante, soprattutto se ripenso alle emozioni che provo trovando il primo fiore su un albero o su una piantina. Mamma mia, la poesia di Libera. Sì, Libera infatti ci invita a visitare il suo laboratorio, la sua casa e forse anche le sue terre. A giugno in particolare invita a passare dalle sue parti per mangiare le albicocche vesuviane, dette anche pellecchielle, buone, proprio quelle buone, lì buone, buonissime. Però dobbiamo capire, sì, se quelle di Libera sono proprio quelle, poi glielo chiediamo il primo maggio. Comunque perché buonissime, lei sarà lo stesso, presente tutta la giornata. Buonissime lo stesso, siamo d'accordo. Senza parole. Parliamoci in faccia. Considero il mio lavoro, dice sempre Libera, un corredo emotivo familiare che spero di preservare e tramandare a mia figlia. Da qualche anno ho messo su anche questo progetto, la dispensa vesuviana, che prende vita con l'intento di garantire la distribuzione di alimenti naturali biologici, nata per necessità domestiche e in seguito diventata una proposta per chiunque voglia mangiare bene e sano. I prodotti di questa dispensa provengono da diversi piccoli coltivatori che aderiscono ad un certo tipo di coltivazione e produzione. Del primo maggio 2024 dietro l'ex chalet qui a Marigliano ci sarà Cortocircuito Flegreo. L'associazione opera sul territorio flegreo e campano come attore sociale, animatore, promotore di servizi e sviluppo per la realizzazione del distretto di economia solidale dell'area flegrea, attraverso un percorso partecipato e democratico al quale possono prendere parte le realtà del distretto e le singole persone. Cortocircuito Flegreo intende sperimentare strumenti volti a sviluppare una comunicazione che faciliti la partecipazione delle varie realtà al progetto, una promozione che faccia conoscere la realtà dell'economia solidale nel territorio, una informazione che favorisca la condivisione e la diffusione dei contenuti, con particolare riguardo agli stili di produzione, di consumo e alla pratica dei GAS, gruppi di acquisto solidale. Una gestione che faciliti l'accesso ai beni e servizi offerti, in particolare tramite lo sviluppo di una rete locale di relazioni che costituisca un punto di incontro più ampio possibile tra consumatori e produttori solidali. Eh sì, sì, esattamente. L'idea che è alla base dell'associazione Cortocircuito Flegreo è quella di agire localmente nei vari territori, mettendo in rete le svariate esperienze di economia solidale per rafforzarle, per svilupparle e per dare vita a distretti locali che globalmente possano ricomporre un nuovo sistema economico solidale. Un sistema che nasca dall'intreccio delle prassi concrete, sperimentandosi e diffondendosi dal basso, a stretto contatto con i bisogni ed i valori delle persone e della comunità. Questo è Cortocircuito Flegreo. Questa è Radio Plaza. Radio Plaza. Quelle est la radio que tu écoutes? Radio Plaza, évidemment. Évidemment, direi proprio così, direi proprio che è Radio Plaza. Radio Plaza. E allora stiamo presentando il programma quasi definitivo di primo maggio 2024, Occhio all'ingranaggio, quinta edizione. Vi abbiamo raccontato un po' chi ci sarà per tutta la giornata sotto gli stand. Abbiamo dimenticato di dire che agli stand ci sarà anche Radio Plaza, ovviamente, e Collettivo Utopia, évidemment, direi. Sì, una giornata di controcultura dove si parlerà di catena di montaggio sociale, di resistenze, di autogestione, di non lavoro. E si parte, vi raccontiamo. Allora, alle 11 avremo... Proprio il calendario proprio? Sì, partiamo bellissimo. Così per non perdere dalle nessun 11. Appuntamento. Dai. Alle 11 si comincia con il gruppo di lettura Operaie con mio nonno e Michelangelo. Gruppo di lettura si chiama Operaie. Gruppo di lettura, due punti, virgolette, Operaie. Basta così. A cura della libreria mio nonno è Michelangelo, libreria sì. Per bambini da 0 a 100 anni, simbolo di resistenza e bellezza. Un luogo magico davvero, davvero, che prende il nome del papà della libraia, con scaffali pieni di libri e albi illustrati, tantissimi colori e uno spazio molto ampio dentro e fuori, adatto ad accogliere, l'abbiamo detto, a Pomigliano, l'abbiamo detto, lo dico adesso, adatto ad accogliere numerosi bambini e bambine pronte ad ascoltare storie e a sfogliare pagine. E Maria Carmela Polise, l'animatrice di questa operazione, all'ingresso della sua libreria ha scritto: leggete, usate parole gentili, fate domande. E da un'altra parte, qui siamo tutti uguali. E in questi giorni uguali, ha scritto anche che siamo tutti antifascisti. L'ha scritto, io l'ho letto. Vabbè, questa è una banalità. L'Italia è antifascista, sappiatelo. Gli italiani un po' meno. Maria Carmela Polise ci presenterà il suo gruppo di lettura Operaie a partire dalla Pala Meccanica e la sua polvere da sparo di Enzo Rea. La prima uscita di una nuova collana di libri targati Flip. Flip è il Festival della Letteratura Indipendente di Pomigliano d'Arco, appunto. Curata la collana da Wojtek Edizioni, ne abbiamo già parlato prima, ci saranno anche loro. Quindi di racconti e storie dedicate interamente a Pomigliano d'Arco. La Pala Meccanica e la sua polvere da sparo di Enzo Rea, un libro denuncia sul tema delle morti bianche, dell'assenza di sicurezza nei luoghi di lavoro, delle disfunzioni degli apparati amministrativi, economici e politici nell'affrontare questa vera e propria piaga. la strage della Flaubert del 1975, in cui 13 operai persero la vita. La morte di Salvatore Sturace, che a soli 15 anni venne a mancare nel 1988 in un cantiere edile di Pomigliano d'Arco, da addetto alla pala meccanica. Le battaglie nell'Alfa Sud e la cultura operaia di Pomigliano d'Arco, che ha portato alla nascita di Tesi, gruppo operaio. Sì, tante storie atroci che l'autore ci introduce con lo scopo di denunciare, ricordare e fare in modo che non accadano mai più. Ma cosa è che ti che conti te muge? Ma quando è lei che ti tacca tu frigideiro, tu faccio sopra granite per leva tasse? Perché ti insiste a tenere in fresco in tutto il tu e buttice con la mente le guade visci? Che ne de tutti presi, nevi e veggi, sono grandi, grossi e piccini. E venna fino a tu pa' fai anci banchetta Santa Gama. Ma quando è lei che ti tacca tu frigideiro, mi ci uffito che se si sana cattiva vampa. Ma quando è lei che ti tacca tu frigideiro, ma quando è lei che ti tacca tu frigideiro, ma quando è lei che ti tacca tu frigideiro. E andiamo avanti con il programma del primo maggio, Occhio all'ingranaggio, qui a Marigliano, tutte invitate, soprattutto le mamme. Perché? Perché è maggio. È un mese del rosa. È un mese del rosa. Ma che sta succedendo? Cosa hai bevuto stamattina nel caffè? Che cosa? Ho bevuto un ottimo caffè stamattina che mi ha, sì, mi ha aperto a nuovi orizzonti. Buono, buono, vero? Molto buono il caffè stamattina. E allora andiamo avanti con questo programma, stiamo leggendo quindi il calendario preciso degli interventi che ci saranno qui a Marigliano il primo maggio, Occhio all'ingranaggio, organizzato dal collettivo Utopia in autogestione e soprattutto in autofinanziamento. Il collettivo Utopia non utilizza fondi statali né comunali, chiama né regionali né europei e chiama sponsor commerciali e quindi non si fa finanziare da nessuno se non dalle offerte del popolo. E quindi ricordiamo che ancora in questo momento sotto il gazebo del collettivo Utopia è in corso proprio la raccolta fondi, quindi chi volesse partecipare, raccolta fondi ancora attiva per l'organizzazione per le spese vive del primo maggio, Occhio all'ingranaggio 2024. Sì, fatela un'offerta, anche 50 euro va bene, non è un problema, non ci sconvolgiamo di mattina. E vi raccontiamo ancora che oltre a Radio Plaza il primo maggio ci sarà un'altra radio, è Radio Neanderthal. Sì, una nostra radio super amica si può dire. Che gente si offende per qualunque cosa qua. Qua si offendono tutti. E allora, Radio Neanderthal, dal blog leggiamo. Chi siamo? Dalle ceneri di Radiolina Pirata con Yatta Nera, spazio radiofonico nomade e Radio TSO. Nasce per ora Radio Neanderthal, un laboratorio in cui si sperimenta un altro modo di comunicare, non la partecipazione a tutti i costi, una vera e propria inversione di tendenza. Si rallenta. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100. Non c'è niente da capire. Ma dalle rallenta. È stupefacente. Il tentativo di Radio Neanderthal è di costruire segmenti di velocità differenti in cui tutte le tematiche tra virgolette, chissà perché affrontate, e le relazioni stabilite nel tempo passano attraverso pratiche che rileggono con estremo distacco gli strumenti del comunicare contemporaneo. Il pensiero comincia a risedimentare secondo i suoi / nostri tempi e non quelli imposti dalla performatività della società contemporanea che incatenano le nostre esistenze. E allora vi raccontiamo quali sono, secondo Radio Neanderthal, i motivi d'estinzione dell'uomo di Neanderthal. Troppo sesso. Cambiamenti climatici. Virus. Cannibalismo. Poca socievolezza. Scarsa flessibilità mentale. Assenza di divisione del lavoro maschio/femmina. Mancata domesticazione degli animali. E l'incapacità nella caccia delle piccole prede. E tu che mangi il gelato. Radio Plaza. Tu corri dietro il vento e sembri una farfalla e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla. Se hai paura di andar lontano puoi volarmi nella mano. Ma so già cosa pensi, tu vorresti partire come se andare lontano fossi uguale a morire. E non c'è niente di strano, ma non posso venire. E poi e poi e poi e poi si mangia ragazzi al pre... ragazzi ragazzi gioventù, vabbè, tutti quando si mangia il primo maggio 2024, occhio all'ingranaggio, quinta edizione, si mangia con un pranzo contadino che è veramente buono. Ho una pranzata. Anche una pranzata. Anche sì. Una panzata. La notte madre che cercava di contare le sue stelle, cerco di prendere tempo in quanto qui ci sono dei problemi tecnici che probabilmente non risolveremo a breve, e quindi andiamo avanti. Un buon odore in questa piazza stamattina, eh? Buon odore, sì. Buona, mi ragazzi. Mi sa che stai pensando al pranzo. Al pranzo? No, non pensavo. Vabbè, anche al pranzo, dopo pranzo. Allora, di solito dopo pranzo. Ricordiamo che ci sarà un pranzo contadino organizzato, ci sarà il primo maggio ovviamente, un pranzo contadino organizzato dagli stand presenti tutta la giornata. Quelli che vi abbiamo raccontato, di cui vi abbiamo raccontato nella prima parte di questa puntata di presentazione della quinta edizione di primo maggio, occhio all'ingranaggio. Sì, Libera Feola cucinerà qualcosa, il Genuino Clandestino tutti quanti. E poi nel pomeriggio, nel pomeriggio si comincia con Radici di Gramigna, lavoro nei campi, lavoro femminile. Sì, Radici di Gramigna è a periodico radiofonico nomade in quattro quarti. Sul ritmo Terra e Libertà, storie di vita e resistenza contadini, antidoti magici al virus del potere e musica viva. Gramigna Hi-Fi vuole essere il sound dei mercati, delle raccolte collettive, il muro di casse che celebra l'invasione e il saccheggio della metropoli, delle occupazioni di terra, degli squat di ricche masserie dei neofeudatari, dell'urlare in faccia basta allo sfruttamento nei e dei campi. Now walk you somewhere. Nel Pignato. Raccorti, potenzialità, limiti e immaginario dell'esodo della civiltà metropolitana. Raccolte di interviste distorte e racconti dal mondo degli orti, delle terre, delle campagne, delle montagne, della sovranità alimentare e di tutte le civiltà del banditismo e del brigantaggio dei nostri tempi. E poi Meraki, ricette officinali, tecniche di potatura, di compostaggio, di germinazione, semina e raccolta, di biocostruzione, di fitodepurazione, ricicliamo le cattive abitudini, rompiamo la dipendenza dai flussi della merce. Siamo giunti all'autofagia per superarci in quanto comunità terribili. Ora dobbiamo essere noi, i vermi che compostano il vecchio mondo. Rimpiazziamo economia con ecologia. La cura è anticapitalismo quando la si collettivizza. E poi il Sound System Tales. Oh yeah. Abbiamo poggiato per terra alcuni pezzi di legno abbandonati e hanno messo radici. Vecchie casse riprendono a suonare e noi torniamo a chiederci: quale utilizzo possibile della macchina sonora dentro e fuori le città? Ma che minchia è il mercato culturale? Ma che c'entra con il mito, rito della festa come atto di celebrazione? Sound System come strumento o come traguardo? L'antologia è ancora da scrivere, dialoghi irriverenti con chiunque, parenti, sound boys, girls, maghi, maestre, sciamanu, vampires, sono loro e con Radici di Gramigna. Ah, quello lì, quello con lì. Con Sound System, con Radici di Gramigna, con quegli amici lì. Pare ci saranno anche gli Apaz e Senema, ospiti, insomma una sound system da ascoltare ad orecchie aperte. Irriverente affascinante, strabiliante, esuberante Radio Plaza. Adelante, Radio Plaza, direttissima, no. Sperimentale, imperdibile, improvvisa Radio Plaza. La solita, come dico io, la solita Radio Plaza. Questa volta Radio Plaza presenterà una puntata dal titolo Cambiate lavoro, per favore. Sì, ospiteremo i traduttori di questo libro, che è un libro francese, va bene, ne parliamo dopo. Direvo okay. già così è Radio Plaza. Musica, voci, silenzio, idee, racconti, silenzi, niente scherzi, è Radio Plaza. Hic sic et nunc, extemporanea Radio Plaza imprendibile. Quindi per il 1 maggio 2024 Radio Plaza, intermittente radiofonica libera, itinerante, estemporanea, che trasmette la propria programmazione dalle piazze e su collettivotopia.noblogs.org, presenta, come dicevamo, il libro Cambiate lavoro per favore, lettere agli umani che robotizzano il mondo, con la scritto da Celia Isoard, con la prefazione di Roberto Ciccarelli. Avremo presenti ai microfoni di Radio Plaza i traduttori Luigi Lorato e Michela Rossi, che ci racconteranno quali implicazioni sociali ed ecologiche si celano dietro l'apparente neutralità delle nuove tecnologie e quale senso e quali ricadute hanno robotica e digitale in un mondo sull'orlo del collasso climatico. Mamma mia! L'autrice interroga direttamente ricercatori, ingegneri, start-upper con una serie di lettere aperte in cui mescola con sagace analisi, riflessioni e domande scomode e li invita quindi gentilmente a cambiare lavoro, proprio come ha fatto l'ingegnere dei veicoli a guida autonoma Oliver Lefebvre, sì. Che racconta sempre in questo libro, lo ricordiamo, il titolo del libro è Cambiate lavoro per favore. Edizioni Malamente, grazie Carmine, me l'ero perso. Copertina gialla. Titolo? Cambiate lavoro rosso. Per favore. Non mi destabilizzo. Radio Plaza! Dicevamo, che vogliamo dire qui? E vogliamo dire che attraverso queste lettere emerge tutta la necessità di rimettere in discussione un'innovazione tecnologica che procede al di fuori del dibattito democratico e non si cura di rispondere ad alcun requisito di accettabilità sociale. Ricordiamo che saranno presenti ai microfoni di Radio Plaza nel pomeriggio del 1 maggio 2024, occhio all'ingranaggio, quinta edizione, dicevo, ci saranno presenti al tavolo con noi Luigi Lorato e Michela Rossi, i traduttori del libro Cambiate lavoro per favore. Riprendiamo fiato qui a Radio Plaza in diretta su collettivoutopia.noblogs.org e live qui in Piazza Pippa a Marigliano, nella presentazione del programma e della giornata del primo maggio, occhio all'ingranaggio, qui a Marigliano in Piazza Roma, che vuol dire dietro allo chalet, che significa dietro la villa, vabbè, sempre dietro a qualcuno, abbiamo perso un sacco di tempo dietro a questi qua. Andiamo avanti e ascoltiamo una canzone, questa canzone, ascoltiamo questa. Dall'album questa? Bella ciao. Non ti piace? Ciao bel partigiano. Mi piace? Portami via. Eccoli là. E mi sento di Siamo morire. Tutti qui. Se io muoio. Un saluto al barbone lì. Bella ciao. Ciao Salvatore. Ciao e se io muoio. Grande Giuseppina. Da partigiano. Devi seppellire. Siamo tutti liberi di andare avanti ed ascoltare Giuseppina, da nome Radio Plaza, frequenze dinamitarde. Eccoci, la musica di Radio Plaza che spiazza ancora in questa piazza piena di sole stamattina. Volevo dire uno slogan, è possibile? Vai. Autonomia è libertà. Con candelabri in testa o come le balinesi. E allora stiamo presentando il programma del 1 maggio 2024, occhio all'ingranaggio, quinta edizione, qui a Marigliano dietro l'ex chalet. Vi ricordiamo che c'è, siamo arrivati al momento della pomeriggio, serale, il pomeriggio, siamo agli serale, sgoccioli di questo aprile, quindi contribuite alla raccolta fondi del primo maggio. Occhio all'ingranaggio, completamente autogestito, autofinanziato, libero dalla burocrazia, quasi. Saliamo sul palco del primo maggio 2024, comincia il teatro, ci sarà il teatro più o meno alle 18.30. Grande spettacolo teatrale. Spettacolo teatrale con Itaca Colonia Creativa che presenterà Il Muratore. Itaca Colonia Creativa di Pomigliano si presenta in questo modo. Ciclope, domandi il mio nome glorioso? Ma certo, lo dirò. E tu dammi il dono ospitale come hai promesso. Nessuno ho nome. Nessuno mi chiamano madre e padre e tutti quanti compagni. Itaca Colonia Creativa si occupa di formazione, produzione e distribuzione culturale per imparare, crescere ed esprimersi all'insegna dell'interdisciplinarità. Itaca Colonia Creativa perché la nostra isola felice possa soddisfare le esigenze degli operatori culturali del domani e possa fare della cultura un'impresa in ogni senso. Eh sì, perché loro si definiscono la casa di tutti e nessuno, artisti di ogni genere, costretti a viaggiare e molto spesso a scappare alla continua ricerca di un porto sicuro. E più o meno intorno alle 18.30, forse 19, comincia il concerto del primo maggio 2024. Occhio all'ingranaggio, quinta edizione. Vi hanno raccontato del concerto del primo maggio di Roma? Dimenticate. Vi hanno parlato di quello di Taranto? Beh, quello noi apprezziamo, rispetto. Ma nessuno ancora vi ha raccontato del primo maggio a Marigliano. Non capite niente. E allora lo facciamo noi. E salirà tutti partono da una briciola, ricordatevelo. Salirà per primo sul palco del primo maggio 2024, anzi ritornerà su questo palco, Mimmo Tachi. Chi è Mimmo Tachi? Rapper, domanda banale. Rapper e attivista classe 1988. Ammazza, un ragazzo. Un ragazzo, è giovane. Grande. Si forma come persona a Brusciano e artisticamente tra Pomigliano e Napoli. Molto attivo nelle gare di freestyle, nelle quali ha ottenuto ottimi piazzamenti a livello nazionale e regionale. Ha collaborato con numerosi artisti, rapper e non solo, ed è presente in molti album di artisti emergenti. Ha all'attivo un disco ufficiale dal titolo Utopia, e come potremmo non amarlo noi con un titolo così, noi del collettivo Utopia in questo caso, e dicevo un uscito disco uscito a novembre ufficiale, 2020. Uscito a novembre del 2020. Ok, buono. E aprite bene le orecchie, c'è qualcosa che fa bene al fegato, signori, ed è l'amaro. L'amaro non quello lì, l'amaro, proprio l'amarostico, diciamo così. L'amaro è un gruppo musicale che verrà qui al concerto del primo maggio, occhio all'ingranaggio, dietro allo chalet abbandonato da tutti e disgregato, ragazzi, è una vergogna, quel luogo l'ho visto, veramente, guarda, qualcuno direbbe uno schifo. Andiamo avanti. Ti ha lasciato l'amaro in bocca. Mi ha lasciato l'amaro in bocca. L'amaro, allora, quindi live al concerto del primo maggio, occhio all'ingranaggio, è un progetto musicale indipendente del Vesuviano, composto dal cantante e chitarrista Carmine Lamarca e Ilaria Feola alla batteria, un duo quindi, punk. Durante l'esibizione verranno eseguiti alcuni pezzi inediti cantautoriali con influenze jazz e un'indole pop folk, insieme a cover di brani significativi per il loro percorso artistico musicale. L'estate scorsa sono usciti due loro brani sulle varie piattaforme online. Uno dal titolo A casa male, ma per chi è di somma vesuviana come me, me lo, ecco, mi sono dichiarata. Casa Male è un gran bel posto. E è un borgo, dicevo, un borgo medievale. Borgo medievale di Somma Vesuviana, bellissimo da visitare, vivo, vero, pieno di gente bella. L'estate scorsa, dicevamo, sono usciti questi due brani, A Casa Male e la cover di Via Commedia di Paolo Conte. Per quanto riguarda la prima canzone, è stato autoprodotto un videoclip ambientato nel borgo proprio da cui prende nome ed ispirazione la canzone, visibile anche sul canale YouTube del gruppo. Girato con un budget minimo e l'intenzione di descrivere un'ipotetica serata nel borgo Casa Male, tra realtà e visione nell'onirico centro storico, dove ogni sera può trasformarsi in una festa. Live il 1° maggio, L'Amaro. E poi avremo le incursioni dei Sun. Sun, direi anche, perché dipende da come uno lo vuole interpretare, S-U-M. Perché è un ambiguo. E senza un nome. Senza un nome, senza un'identità. Se diciamo Sun. Se diciamo Sun, invece, in inglese è... Sole. È proprio il sole, la luce del sole. E... di cui però... Tutta una sorpresa, così come sarà per The Little Devils, anche loro, tanti fuochi, boh, Little chissà, Devils vedremo. È un progetto sperimentale, variabile, un gruppo talmente variabile che potrebbe addirittura non venire proprio. Addirittura, vabbè, noi li imprevedibili, imprevedibili. Aspettiamo tutti sul palco del 1° maggio 2024, quinta edizione di 1° maggio, Occhio all'ingranaggio a Marigliano. Eccoci, Radio Plaza. E visto che il programma più o meno ve l'abbiamo raccontato, la giornata ve l'abbiamo raccontata, vi abbiamo chiesto di continuare a contribuire alla raccolta fondi per l'organizzazione per le spese vive del 1° maggio, quinta edizione Occhio all'ingranaggio 2024, noi però vi salutiamo e vi diamo appuntamento, non dimenticate, al 1° maggio 2024, non do scurtà. Dalle 10 di mattina più o meno dovremmo essere più o meno pronti per iniziare, dalle 10 di mattina alle 10 di sera, massimo 10 di sera. Anche perché ci stanchiamo, siamo vecchiarelli. No, ma soprattutto qua a Valle Scenna, qua. Radio Plaza! È finita? Così.